Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo prontissimi dal Groovemaster Studio, prontissimi a dare il via al soundcheck prova del suono di Radio 24 di questa sera, in una giornata particolare per tutti noi appassionati di musica, perché oggi si festeggia The International Jazz Day. E quindi auguri per l'International Jazz Day, come per il giorno di San Valentino, per esempio, alla nostra Silvia Barba, presente anche questa sera nel nostro studio. Eccomi, buonasera a tutti e auguri anche a te. Sei pronta per festeggiare questa giornata dedicata al jazz dall'UNESCO ormai dal 2011? Esatto, dal 2011 è stato scelto il 30 aprile, quindi si può segnare sul calendario di ogni anno che il 30 aprile è la giornata dedicata appunto alla promozione e alla diffusione del jazz in tutto il mondo. Ecco, per quale motivo però Irina Bokova, che è il direttore generale dell'UNESCO insieme a Herbie Hancock, hanno dichiarato come data il 30 di aprile, o meglio, perché vogliono celebrare il jazz, per quale motivo? Quali sono i valori del jazz? Perché appunto per le sue radici e per la sua struttura anche da un punto di vista sociale e culturale, l'UNESCO ha scelto il jazz perché è un genere musicale che unisce, che non discrimina, che promuove lo scambio culturale e che è insita nella sua natura appunto questa diffusione e questa anche i valori dei diritti umani, no? Assolutamente sì, mia cara Silvia. Infatti oggi parliamo di jazz e ne suoneremo delle belle. Ho tirato giù anche un repertorio un po' particolare, partendo però dal blues, che la radice. Oh, esatto, e poi la radice anche per tutti i musicisti contemporanei, che tu voglia fare il rockettaro, il punk a bestia o suonare anche musica classica, comunque la forma, la struttura e le progressioni armoniche di queste meravigliose 12 misure che caratterizzano il blues le devi conoscere assolutamente. È imprescindibile il blues da ogni genere musicale. Allora, International Jazz Day lo festeggiamo anche noi qui al Soundcheck di Radio 24, lo abbiamo detto, vogliamo partire dal blues, lo facciamo subito, e ho scelto un manifesto, ecco, del blues e del jazz, ovvero Every Day I Have the Blues, la voce del possente Jimmy Rushing, una registrazione dannata, una vecchia composizione di Memphis Slim, con brano con il quale diamo il via alla puntata di oggi. Poi veramente belle cose in repertorio, musicisti di jazz che interpretano brani che vengono dal repertorio pop rock o solo, oppure anche il contrario, musicisti del contemporary R&B che si cimentano in standard di jazz. Ho mischiato un po' le carte. Puntatona, amici. Pare di sì. Con Jimmy Rushing e un classico come Every Day I Have the Blues abbiamo dato il via a questo International Jazz Day, giornata importante per l'UNESCO ormai da 5 anni, credo che dal 2011 si festeggi l'International Jazz Day. Herbie Hancock, che è ambasciatore dell'UNESCO, in questo momento sicuramente sta ancora ultimando le fasi di preparazione, di rodaggio, il soundcheck classico come quello che facciamo noi, con tutti i musicisti che rappresenteranno il jazz a Washington DC. Sì, perché negli ultimi anni il main concert, il concerto principale, si è svolto a Istanbul, Parigi, Osaka in Giappone. Adesso invece quest'anno, questa sera, si festeggerà a Washington DC con un cast stellare che neanche elenchiamo, perché possiamo immaginare chi può calcare il palcoscenico lì a Washington. Fatto sta che l'International Jazz Day oggi viene festeggiato in tutto il mondo. Esatto, ci sono manifestazioni in tutto il mondo e diciamo il la principale ragione per cui è stato scelto il jazz è appunto aumentare la consapevolezza di un dialogo interculturale e la comprensione reciproca, riconoscendo le diversità, molto importante. Hancock ribadisce sempre che l'identità culturale non prescinde assolutamente dal fatto di riconoscere le diversità e promuoverle abbattendo le frontiere, le discriminazioni e appunto la libertà di espressione che ogni musicista jazz può attraverso la sua musica. Sì, valori che il jazz ha sempre rappresentato, sempre. Da sempre, insomma, è facile trovare nel jazz elementi musicali, sociali e culturali che arrivano da altri paesi in tutte le epoche del jazz. Cioè, se pensi soltanto che Dizzy Gillespie nell'era bebop già promuoveva con la sua orchestra il piacere, che ne so, della musica latina, della salsa cubana, oppure Night in Tunisia. Guarda, solo parlando di Dizzy Gillespie, con elementi assolutamente lontani dalla tipica cultura afro americana. Ebbene, il jazz è questo, oggi noi lo rappresentiamo qui al nostro soundcheck con questo concertone, lo ripeto, a Washington DC, ma in tutta Italia, anche in tutto il mondo ci sono manifestazioni, in Italia vari concerti, troverete nella pagina dell'International Jazz Day tutti gli appuntamenti che questa sera daranno libero sfogo ai musicisti che proporranno la loro passione sul palco. Direi, mia cara Silvia, di tornare al blues, e poi col blues ci fermiamo, procediamo con altro repertorio, con Jimmy Smith, The Incredible Jimmy Smith all'organo, la partecipazione di Taj Mahal, il brano si intitola Strut. Questo è il soundcheck di Radio 24 nell'International Jazz Day. Soundcheck, il suono della musica. If you leave it off the wall. E questo è Off the Wall, il vecchio successo del re del pop Michael Jackson, una composizione di Rod Temperton nella versione più jazz della giovanissima Siri LeMay. Tanto per farvi capire che in questa giornata dedicata all'International Jazz Day, qui al Soundcheck, suoneremo cose diverse, produzioni, composizioni che vengono dal pop o dall'R&B, suonate da musicisti di jazz, ma anche cose diverse. Allora, dicevamo per esempio del blues, mia cara Silvia, che è importantissimo per il jazz e non solo per il jazz. Cosa diceva Carmen McCree? Beh, che il blues è per il jazz ciò che il lievito è per il pane, senza di esso è piatto. E invece per Marcus Miller il jazz è la musica più bella in assoluto, perché musica assolutamente democratica, dà la possibilità a tutti i musicisti di essere gregari e protagonisti al tempo stesso. Tu come ti sei avvicinata al jazz? Beh, io grazie a degli amici che lo praticano, che lo suonano, che lo hanno studiato e che mi stimolano assolutamente giorno per giorno. Non è stato proprio un colpo di fulmine, io vengo da un'altra formazione musicale che è quella del cantautorato italiano, della musica popolare, anche d'autore, ma comunque popolare, e il jazz è arrivato un po' più tardi, però devo dire è un amore che si rinnova di giorno in giorno, perché grazie a te, ma a tantissime altre persone che mi circondano, riesco a trovare delle cose sempre nuove. Per me è un patrimonio davvero immenso. Io non so se riuscirò nella mia vita ad ascoltare tutto il jazz che è stato prodotto e che sarà prodotto. Eh sì, perché fa parte proprio della natura dei musicisti di jazz, essere sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma rispettando comunque la tradizione e i grandi maestri. Questa è una delle cose belle di questa musica. È stato scelto proprio il jazz come genere dall'UNESCO proprio perché le raccoglie tutte queste tradizioni e, se vuoi, le rinnova attraverso invece quelli che sono i gusti e le scelte della musica contemporanea. Per tornare alla musica, vorrei farti ascoltare, ti piace Billy Joel? Come no? Ecco, Billy Joel, grandissimo songwriter americano, grandissimo successo per lui negli anni Ottanta, con una canzone bellissima intitolata Just the Way You Are, ti ricordi? Come no? Ecco, nella versione originale, Billy Joel chiamò il meraviglioso Phil Woods a proporre un assolo di sax contralto che è rimasto nella storia. E invece la versione di questa sera che propongo qui al Soundcheck ha come protagonista un chitarrista manouche, forse uno dei più accreditati da Django Reinhardt a oggi, e si chiama Biréli Lagrène, che è meraviglioso, e quindi qui con la sua band, nella sua in chiave assolutamente swing manouche, ci propone Just the Way You Are di Billy Joel. Soundcheck. Il suono della musica. Una versione recente, insomma già di qualche anno fa, che ha Al Jarreau e George Benson protagonisti di Tutu, una composizione scritta da Miles Davis e Marcus Miller. Sì, prima abbiamo citato Marcus Miller, che è musicista che ha rivoluzionato l'approccio con il basso elettrico, ma anche un meraviglioso producer, arrangiatore, lanciatissimo poi dopo aver collaborato con Miles Davis. Quindi praticamente sono 30 anni che Marcus Miller imperversa con il suo strumento, il suo suono e le sue band. Tutu, brano scritto, lo ripeto, da Marcus Miller e Miles Davis nella versione di Al Jarreau e George Benson, qui al Soundcheck in questa giornata per celebrare The International Jazz Day. Beh, diciamo che tu sei stato formato, grazie a tuo papà, lo ripeti spesso, a questo genere musicale da quando eri molto piccolo. Io voglio sapere se in futuro tua figlia dovesse scegliere di uscire con un musicista jazz, guarda la faccia già del sì, papà, che sì. Se tu insomma saresti contento oppure no. Dipende sempre dalla persona e non dal musicista e forse neanche dal genere. Certamente preferirei che mia figlia uscisse con un bravo pianista di jazz, blues e altro, e non con un chitarrista panca bestia, ma solo per motivi musicali, no? Perché certo. Sai qual è la mia predisposizione, però insomma. Però poi, sai che diceva Ellington rispetto a questa lo cosa. So che cosa diceva che Ellington. Che il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Però i tempi sono anche cambiati, perché nel periodo proprio di Duke Ellington i musicisti di jazz insomma ne combinavano di cotte e di crude. Invece adesso beh, ma sono anche molto cambiati. Io incontro musicisti di jazz della nuova generazione che sono sportivi, vegetariani, sono vegani, vanno tutte le domeniche a messa, no? Vabbè, no, io non voglio parlare no, di aspetta, questa scusami, cosa. No, però no. Non so quali frequenti tu. Ecco, questo è il punto, mia guarda, cara guarda, il jazz è vario, ci sono vari generi di persone che lo praticano e quindi sì. Io non parlerò di quelli che beh, con cui guarda, sono d'accordo con sei Duke tu che Ellington. Mi hai portato, hai introdotto l'argomento. Scusami. Non so che cosa vai trovando da me e soprattutto da mia figlia che ha ancora 11 anni. Vabbè. Ecco. Allora, chiudiamo la prima parte del nostro Soundcheck dedicato al jazz per l'International Jazz Day che si festeggia oggi, e quindi se volete fare un regalino e volete avere una scusa, ecco, la scusa è proprio questa: oggi è l'International Jazz Day, regalate un bel libro dedicato alla nostra musica preferita, un bel CD magari di Ella Fitzgerald, non fa mai male. Che libro è questo? Come Wynton Marsalis, come jazz può cambiarti la vita. How Jazz Can Change Your Life, a me l'ha cambiata. Non so se in bene o nel in non bene, so. in bene speriamo dai, di dai. Sì, chiudiamo con George Duke, campione di funk e di fusion, purtroppo scomparso ormai tempo fa. Qui lui celebra con il suo Rhodes Fender e la sua meravigliosa voce un classico di Duke Ellington. Appunto. Vedi, tutto torna in a mellow tone. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Pronti per la seconda parte del Soundcheck, prova del suono di Radio 24, dopo l'informazione, sempre per festeggiare The International Jazz Day. A proposito, voglio subito anticiparvi che domani sera, di solito la domenica presentiamo un repertorio jazz, avrò come ospite il nostro amico Sacha Albasandani, meraviglioso cantante, nuovo rappresentante della vocalità jazz contemporanea, che arriva direttamente da New York per salutarci, incontrarci e poi per andare in giro per l'Italia a fare musica e promozione discografica. E quindi domani sera Sacha Albasandani sarà qui ai microfoni del Soundcheck di Radio 24. Torniamo invece al jazz, mia cara Silvia Barba. Ti vedo contenta, no? Stai rispondendo anche in tempo reale a delle mail che stanno arrivando, che stai combinando? Beh, io interagisco, lo sai che sono molto social. tu agisci e interagisci. E sei fatta così, sei una ragazza della nuova generazione. Sì, vabbè, ma parliamo di te perché mi incuriosisce un po', perché tu sei cresciuto con il jazz. Voglio sapere quali sono stati, non so, i primi concerti live che hai visto. Beh, la responsabilità ce l'ha sempre mio padre, lui, no? Perché da ragazzino seguivo papà e andavo a vedere con lui i concerti. Vuol dire che i concerti più belli visti con papà, io mi ricordo un festival meraviglioso che si faceva a Ravenna nella credo Rocca Brancaleone, credo si chiamasse così, credo proprio di sì. Dunque a Ravenna ebbi la fortuna di vedere, credo forse a 16-17 anni, Dexter Gordon in quartetto. No. Ho visto Buddy Rich con la sua batteria meravigliosa, una formidabile big band. Rimasi scioccato perché allora tentavo anch'io di suonare la batteria e credo che dopo aver visto Buddy Rich le bacchette per un po' le spezzai completamente, una cosa impressionante. E in quell'edizione c'era anche ancora Art Blakey con i Jazz Messengers, con vari solisti, e poi ancora chi vidi? McCoy Tyner, ma dal vivo, insomma, tanta bella quindi musica. Quindi tu da Foggia con il tuo papà partivi e andavi ai concerti. Sì, sì, lasciavamo mamma e mia sorella e con lui e un altro paio di amici, un mio che cugino, bello. Anche lui appassionato di jazz, andavamo a vedere i concerti. Quindi facevi scorpacciata di americani, sì, evidentemente. E non abbiamo perso né il pelo e né il vizio, perché continuiamo a fare questa cosa. Torniamo alla musica per l'International Jazz Day. Guarda che ti faccio ascoltare un classico di George Gershwin, però qui proprio siamo ai fondamentali della vocalità, Someone to Watch Over Me, ma nella versione di una soul singer, blues singer, insomma una vera sister come Etta James. Meravigliosa. Soundcheck, il suono della musica. Diana Krall, nata come vocalist, come pianista di jazz, suonava in localini, baretti, in giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, poi approdò a Umbria Jazz e con gli altri amici come Roberto Gatto e Danilo Rea, meravigliosi musicisti di jazz italiani, andavamo a vederla più che altro perché volevamo rimorchiare Diana Krall, che era un esemplare, era bellissima, giovanissima, poi suonava il piano molto bene, cantava benissimo, ma naturalmente gelida così come appare sul palcoscenico. Questa è una critica che viene fatta molto spesso a Diana Krall, non ci considerava proprio non ci filava. Fatto sta che qui Diana Krall interpreta un successo di Burt Bacharach, una bellissima composizione intitolata The Look of Love, in questa giornata dedicata all'International Jazz Day. Sì, festeggiamo il jazz insieme a Silvia Barba, che è andata a scrutare alcuni aforismi, personaggi più o meno famosi che hanno detto qualcosa sul jazz, tipo Wynton Marsalis, che lui è davvero un grandissimo educatore anche, mm-hmm. no, al jazz, e lui ci ricorda che il jazz, appunto, il jazz ti ricorda che devi far funzionare le cose insieme ad altri. È difficile, ma si può fare. Ed è una cosa che non dice solo lui, ma dicono in tanti, anche Marcus Miller, leggendo qualche cosa in giro, ma tantissimi. Cioè, il jazz è quel genere che ti deve mettere in connessione con gli altri, non solo con i musicisti con cui suoni, ma anche con il pubblico che ti sta ascoltando. Non è una cosa che devi fare per te. Non è una roba introspettiva, ecco, è una cosa che devi condividere. Quindi, parlando di Wynton Marsalis e di jazz, io consiglierei agli amici in viaggio per New York, per esempio, di fare una visitina al famoso Lincoln Center, dove c'è il jazz club dedicato a Dizzy Gillespie. E in questo meraviglioso jazz club vedrete, ascolterete alcuni dei protagonisti della scena musicale newyorkese in un ambiente anche molto raffinato, molto elegante. Molto si cena anche discretamente, cucina internazionale, dell'ottimo vino, e quindi preparate la vostra carta di credito, perché si gode anche di un bello spettacolo su quella vetrata. Certamente, che ha il suo bel costo, no? Certo. Perché poi vai in giro per jazz club, paghi soltanto il drink che anche con pochi dollari puoi trascorrere delle belle serate, però sai, se vai al Dizzy's, al Lincoln Center, insomma devi fare un piccolo investimento, no? Già, ecco, già. Ma vale la pena. Allora, da Diana Krall passiamo invece a una voce recente, protagonista anche di musical molto richiesta in questo momento, si chiama Shaina Steele, una delle mie preferite, tra l'altro nella passata stagione del Soundcheck ha vinto il Soundchecker Play Music Award nella categoria jazz proprio con questo album, dal quale abbiamo tratto ancora una volta Paper Bag, con la partecipazione di Christian McBride al contrabbasso. Sentite questa composizione di un artista come Fiona Apple, rivisitata in chiave swing e jazz dalla bravissima Shaina Steele. Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Sound check. Il suono della musica. Lo avevamo detto che questa sera mischiavamo un po' le carte, un successo di Stevie Wonder come I Can't Help It, che non è un successo di Michael Jackson, cioè Michael Jackson ha cantato questo brano, lo ha fatto diventare famoso, ma la composizione è di Stevie Wonder. Questa però è la versione più jazz di Gretchen Parlato, che tra l'altro si fece notare nell'ambiente del jazz dopo aver vinto la famosa Thelonious Monk Competition del Thelonious Monk Institute, che è un'istituzione nel mondo del jazz, un'istituzione diretta sempre da Herbie Hancock, che in questo momento sarà a Washington DC sul main concert, per il main concert dell'International Jazz Day che oggi celebriamo. Tra l'altro il Thelonious Monk Institute of Jazz è proprio l'istituto addetto all'organizzazione dell'International Jazz Day. Hancock si porta anche un sacco di ex allievi che certamente sono passati per la scuola e o hanno vinto il prestigioso premio che annualmente si attribuisce ai vari strumenti musicali, e tipo Ben Williams è uno di questi, c'è sempre, certo, nell'International Jazz Day. Ogni anno il Thelonious Monk Jazz Institute assegna anche delle borse di studio per dare la possibilità a musicisti della nuova generazione di poter crescere, e quest'anno lo ha vinto una bella borsa di studio, l'ha presa anche un contrabbassista italiano pugliese che si chiama Luca Alemanno, al quale noi facciamo i nostri complimenti, al quale auguriamo intanto di divertirsi, perché credo che il percorso lo farà a Los Angeles. Esatto, e non settembre si trasferisce a Los Angeles. 2 anni. Ci vediamo a Los Angeles, mio caro Luca. Ci veniamo a trovare senz'altro. Allora, Gretchen Parlato, I Can't Help It, lo dicevamo, mischiamo le carte. Ma un sì. Altro grande vocalist del jazz contemporaneo come Kurt Elling, per restare proprio su Stevie Wonder, ti piace questo? Tantissimo. Ti faccio ascoltare la sua versione di Golden Lady, Kurt Elling al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Stop This Train di John Mayer nella versione meravigliosa di Joshua Redman di qualche anno fa, con il suo sax tenore e naturalmente al pianoforte il fedelissimo Brad Meldau. Questo è il Soundcheck di Radio 24, siamo agli sgoccioli, abbiamo parlato dell'International Jazz Day che si festeggia oggi per l'UNESCO in tutto il mondo, quindi pronti ad andare a vedere concerti, ad ascoltare jazz questa sera in giro per l'Italia, e naturalmente io non posso che ringraziare Silvia Barba che come me è un'appassionata del genere. Ma grazie a te, è stata una puntata molto bella e molto divertente. Io ti ringrazio, però vorrei chiudere in bellezza. No, sì. Perché io conosco personalmente un bravissimo attore comico che quest'anno ha sbancato proprio ai botteghini con l'ultima produzione cinematografica, che da grande avrebbe voluto fare, sono sicuro, il musicista di jazz. Poi fortunatamente per lui ha capito presto che avrebbe sofferto un po' di più e quindi ha abbandonato, per quanto poi sia un bravo compositore di canzoni umoristiche, infatti è lui che si scrive le colonne sonore, e vi sto parlando di Checco Zalone. Ecco. Allora, tempo fa, questo grandissimo figlio di Puglia di Checco Zalone partecipò per promuovere un film a un programma su Sky con Gianni Canova, sì, che salutiamo. E allora io vorrei chiudere in bellezza salutando Checco Zalone, anzi io approfitto, posso invitarlo? Ma certo! A Checco, io ti aspetto qua. Hai capito? Basta a fare il cinema e a fare le stupidaggini. Vieni qua a parlare di jazz e a parlare di musica. Hai capito a me? Ti aspettiamo. Ho parlato in pugliese, in slang, così mi capisce, no? Allora, chiudiamo con Checco Zalone e poi in bellezza con Brent Mehldau in una sua bellissima versione di Dear Prudence, brano di Lennon e McCartney. E noi ci risentiamo domani con Sajal Vasandani. Ciao a tutti. Il jazz è out. Il jazz. C'è stato un convegno di urologi mondiali che hanno individuato, diciamo, tra le cause maggiori di orchite, che sarebbe il rigonfiamento dei testicoli, la musica jazz. Cioè la musica jazz. Ma non è vero. No, la musica jazz è terribile. Io trovo che sia una. È stato lo strumento con cui dopo il blues, il gospel, i neri nelle piantagioni di cotone hanno. No, espresso la loro sofferenza, la loro ansia di libertà. Canova, sei ignorante in materia. Io ti spiego perché. Ci vuole un revisionismo storico in questo senso. Certo, si pensa appunto, come ha detto il preside, che la musica jazz sia la conseguenza, diciamo, il canto, sì, l'espressione, la liberazione di questi schiavi ridotti in schiavitù nelle piantagioni di cotone. In realtà è esattamente l'opposto, cioè questi afroamericani rompevano le balle con sti canti jazz spirito e per punizione li hanno messi nelle piantagioni. Cioè la mia teoria sul jazz è che se questi invece dello spirito lo facevano, beh, non Gigi D'Alessio, una cosa che si capiva, non c'era l'apartheid. Quindi la colpa dell'apartheid del jazz. No, ragazzi, tu però lo suonichi il jazz. Sì, ma adesso lo sto abbandonando, non ne posso più. Guarda, c'è un piano. Ma guarda un po', mi hanno messo.